Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Indie Radio, il programma di informazione indipendente curato dal collettivo di gestione di Calabria Indie Media. Vi ricordo che Indie Radio potete ascoltarla solo su transizione di fase. In questo appuntamento ritorneremo nella nostra veste originaria, infatti dopo vari speciali che avete sentito prevalentemente nello scorso mese, riprenderemo a dare conto delle varie notizie pubblicate su Indie Media Italia e Indie Media Calabria in particolare. L'unica cosa che dobbiamo ricordarvi è che in questi giorni però Indie Media Calabria ha dei problemi di natura tecnica, quindi è probabile che alcuni di voi che saranno andati a pubblicare varie notizie, informazioni, commenti e articoli vari su Calabria Indie Media, appunto, abbiano riscontrato alcune difficoltà. Non vi preoccupate, stiamo lavorando per risolvere il problema e quanto prima saremo nuovamente nella nostra originaria formazione, diciamo così. Bene, in questa puntata, come dicevamo, parleremo di alcune notizie comparse in particolare su Indie Media Italia. Per esempio, vi racconteremo di quello che accade in Russia, dove da sempre la persecuzione colpisce le persone che magari la pensano in maniera un po' diversa rispetto al regime putiniano. E quindi parleremo poi di quello che invece accade in Italia, soprattutto da un punto di vista della repressione che colpisce sempre con sempre maggiore frequenza la lotta NoTav. Quindi parleremo di quello che è accaduto al processo di alcune attiviste NoTav. E sempre a proposito della NoTav parleremo dell'appello per l'11 aprile che giunge dalla valle e viene rivolto a tutta la nazione, e non solo, perché come sapete la NoTav, la battaglia NoTav viene sponsorizzata, viene appoggiata, sostenuta non solo in Italia ma anche ci sono state numerose manifestazioni negli scorsi giorni, negli scorsi mesi, anche in Francia, per esempio, in Gran Bretagna, giusto per citare alcuni esempi. E rimanendo sempre nel Piemonte, parleremo di quello che è accaduto a Torino, dove vi sono due morti in un cantiere per la costruzione del nuovo inceneritore, quindi un inceneritore che non solo determina morti per via del suo essere stesso, ma anche perché magari sul lavoro ci sono condizioni non troppo favorevoli. E poi parleremo invece di un'altra questione, sempre italiana, e parleremo di quello che è stato l'acquisto di alcuni caccia da parte del governo italiano, acquisti sicuramente molto utili, vista soprattutto la crisi economica, no? Veramente tanti complimenti a chi fa queste scelte. Poi giungeremo invece in Calabria e parleremo di quello che è accaduto un po' negli ultimi giorni a Cosenza, il processo Marlane. Vi ricorderemo brevemente che cosa è successo. Dunque continuate ad ascoltare Indie Radio e continuate a seguire Indie Media Calabria, Indie Media Italia e ad ascoltare ovviamente Transizione di Fase. In questo grande, grande mare, grande mare, grande mare, grande mare, grande lei, si veste come l'oceano, quanta paura di dimenticare il mare, dove a volte navigare, navigare, navigare, navigare, navigare, lei. Si mangia tutto l'oceano, resto da solo ad osservare le bandiere, sventolare, sventolare, sventolare, sventolare, sventolare. Ramones, ed ogni loro nuovo disco era una festa. Cosa mi hai portato oggi, cosa mi hai portato? Erano anni verdi di orgogliosa solitudine e di fragilità estrema. Chissà se sarò mai un uomo un giorno, chissà se lo diventerò. Grande come l'oceano, ed io non posso più nuotare in questo grande, grande mare, grande mare, grande mare, grande mare, grande. Lei si veste come l'oceano, quanta paura di dimenticare il mare dove a volte navigare, navigare, navigare, navigare, nadi. Lei si mangia tutto l'oceano, resto da solo ad osservare le bandiere sventolare, sventolare, sventolare, sventolare, sventolare. Gialla con la svastica da punk originale, veniva da un negozio Sex Let You Rock, e all'attaccatura della spalla con la manica il tessuto si ingrossava, formava un'escrescenza, un rigonfio giù di lì. Io pensavo che aggrappandomi al rigonfio della manica io mi sarei salvato da ogni calamità. Dicevamo dunque di quello che è accaduto in Russia, dove un gruppo di femministe punk viene arrestato. Infatti Amnesty International ha chiesto l'immediato rilascio delle tre componenti del gruppo femminista punk Pussy Riot, che rischiano addirittura 7 anni di carcere in Russia per aver inscenato un'esibizione all'interno di una chiesa. Ovviamente tutto il nostro appoggio e la nostra solidarietà alle compagne anarcho-punk. Anche se le tre arrestate hanno preso parte alla protesta, la severità delle autorità russe non è giustificabile. risposta a una pacifica, al massimo offensiva, espressione delle proprie convinzioni politiche. E si legge appunto in questo comunicato di Amnesty International, ovviamente molto, come dire, diplomatico. Noi diciamo che chiunque dovrebbe avere la libertà di manifestare le proprie idee, non vediamo perché si possa andare in una chiesa a pregare e non si possa entrare in una chiesa a dire la propria. E comunque quello che accade in Russia è veramente, veramente sconvolgente. E la repressione comunque si abbatte sempre di più un po' in tutto il mondo sul libero pensiero e le libere manifestazioni dello stesso. Quindi vediamo che lo scorso 21 febbraio 5 donne appartenenti al gruppo erano salite sull'altare della cattedrale di Cristo il Salvatore a Mosca e avevano cantato una canzone intitolata Preghiera Punk prima di essere fermate dalle guardie. Nel testo della canzone si invitava la Vergine Maria a cacciare Putin e diventare femminista. Beh, poi fondamentalmente voglio dire, che cosa c'era di male? Hanno detto solo tante belle cose interessanti, invitando anche una divinità femminile a diventare appunto femminista e liberarsi dalla schiavitù dell'ideologia maschilista delle religioni generalmente di stampo cristiano e non solo. Il gesto comunque ha provocato una dura risposta da parte della potente chiesa ortodossa russa e tre delle Pussy Riot sono state arrestate con l'accusa di atti di teppismo compiuti in associazione, un aggravante inusuale per chi in scena delle manifestazioni di protesta. Tre delle donne sono dunque gli arrestati in attesa del processo, che è previsto entro la fine di questo mese, nonostante due di loro siano madri di figli piccoli. Quindi non possiamo che ancora una volta rinnovare la nostra estrema vicinanza e solidarietà alle musiciste punk, che hanno fatto veramente in realtà una bella cosa. E invece ecco la risposta: dura repressione addirittura 7 anni per una canzone. Figuriamoci se uno dice la verità in un libro, insomma. Effettivamente in Russia qualcuno c'è morto per queste cose. Quindi complimenti ancora una volta a questo governo, a questa forma, diciamo, di potentato, che era molto amica di altre forze italiche, per esempio, no? Vabbè, questi sono altri discorsi, ma sempre molto legati fra di loro. E quindi vediamo come la concezione della donna in queste dimensioni di potere sia legata all'idea di donna asservita totalmente al potere, prostituta per qualche soldo e per un po' di carriera. Una donna, tre donne, cinque donne che vanno in una chiesa a cantare una canzone, una semplice canzone, vengono arrestate e dichiarate pericolosissime, quindi necessitano di 7 anni, dico 7, di prigione. Beh, dovremmo veramente levare un grido di protesta in tutto il mondo. E giungiamo ancora a parlare di questioni relative alla NOTAV. Ancora una volta delle donne che in Russia vengono arrestate perché cantano in una chiesa invitando la Madonna a cacciare Putin e diventare femminista, e invece in Italia le donne NOTAV vengono processate. E quindi vediamo che cosa succede al processo di Nina e Marianna. Leggiamo dunque questa notizia comparsa su Indie Media Italia. Reduce dalla prima udienza del processo a Nina e Marianna, arrestati il 9 settembre 2011 nel corso di una manifestazione al Clarea. Le prime testimonianze portate dal PM sono state quelle di carabinieri e agenti della Digos, che hanno evidenziato lacune, contraddizioni sugli orari, sui numeri e sul motivo stesso dell'uscita dalle reti. C'è chi l'ha definita un'uscita per una carica di alleggerimento e chi invece ha esplicitamente parlato di un'uscita per altri motivi. Su una cosa però tutti sembrano essere d'accordo: nessuna prova fotografica che mostra Nina o Marianna effettuare gesti violenti, tipo lancio di oggetti, nessuna testimonianza che le abbia individuate tra quelli che hanno effettuato gesti violenti. Un'altra cosa l'abbiamo capita con certezza e ha anche a che fare con i lacrimogeni e le regole d'utilizzo. Andrebbero tirati a candela con un'angolazione minima di 45 gradi. Andrebbero, appunto. I testimoni ascoltati fino a questo momento parlano relativamente ai fatti del 9 settembre di lanci di lacrimogeni a mano e a grappolo. Nessuno sembra aver visto quei candelotti con tanto di propulsore interno che quella notte hanno raggiunto più di un manifestante, sfiorando anche la sottoscritta con un'evidente gittata d'altezza d'uomo. Non pervenuti, sarà stata la mia fervida immaginazione, è scritto appunto in questo articolo che vi ricordiamo è stato pubblicato su Indimedia Italia. La soluzione è chiara. Stando al PM, per evitare i lacrimogeni basta spostarsi. Bellissima idea, insomma, grazie al PM, e questo lo aggiungiamo, per aver dato questa importante informazione. Certo, continua l'articolo, come abbiamo fatto a non pensarci prima? Altra curiosità relativa all'uso degli idranti. Secondo le testimonianze, infatti, il 9 settembre sarebbero stati usati solo i manicotti collegati a una rete idrica. Alla domanda se la rete idrica fosse stata creata per usi caratteristici o solo per ordine pubblico, nessuno ha saputo rispondere. A noi viene un altro dubbio. Come mai nessuno ha accennato agli automezzi della polizia usati anche quella sera contro i manifestanti? Questa foto, se la memoria non mi inganna, fu pubblicata il 10 settembre sulla Gallery della Stampa e non si trattava di immagine di repertorio, ma di un mezzo usato proprio il 9 settembre. È poco chiaro anche se siano stati usati prima gli idranti e poi i lacrimogeni, ma poco importa. Come direbbe il PM, per evitarli basta non essere lì. Avremmo avuto anche la curiosità di capire il contenuto del verbale di sequestro seguita alla perquisizione di Marianna, eppure di questo documento non c'è traccia. Peccato, perché dovrebbe essere quello il cui contenuto dimostra che aveva con sé uno zaino contenente pietre, quelle stesse pietre che hanno causato la caduta di uno degli agenti all'interno delle reti. È assolutamente certo che la pietra sulla quale si è inciampato sia stata tirata da un manifestante. E sì, perché probabilmente prima di essere tirate sono state contrassegnate del tipo «Io ce l'ho già», «Io ci sono arrivato non mi ricordo da dove». Ogni pietra, insomma, ha una storia da raccontare. E anche noi, quella di Nina e Marianna, che, almeno dall'udienza di oggi, sono state prese perché si sono inciampate, perché erano staccate dal gruppo principale, forse perché bisognava pur prendere qualcuno, non importa chi, purché fosse qualcuno tra noi. Queste le prime impressioni, a più tardi per una narrazione più precisa. Devo riordinare pagine e pagine di appunti. E questo è dunque l'articolo pubblicato su Indimedia Italia, che racconta appunto delle prime impressioni rispetto a questo processo che ha colpito due manifestanti notav che, come avete sentito, sono state arrestate nel settembre scorso. Oh, like you find it easy, aching to see, walking on air, hunting by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon, sat down with due care. In silence, don't walk away. Ora parliamo sempre di NOTAV e vi diamo conto di questo appello che diciamo sta girando su vari media, perché ormai insomma questa estinzione media di movimento è insomma un lungo discorso. Dunque dicevamo di questo appello che parla di una settimana di mobilitazione per gli espropri previsti mercoledì 11 aprile. E dunque leggiamo integralmente, ci asteniamo dal fare commenti perché altrimenti magari diventeremo poco chiari. Comunque, questo l'appello. Dopo le battaglie estive, lo Stato e il suo braccio armato tornano a giocare alla guerra in Val Susa sulla popolazione inerme. Già dopo un pacifico corteo a Bussoleno appariva chiaro l'intento del potere forte. Come prima risposta, il giorno successivo viene occupato il casello di Avigliana. I timori si rivelano fondati. Giunge lo sgombero della baita Clarea, col tentato omicidio di un attivista valligiano molto conosciuto. Iniziano i blocchi e le varie iniziative, molto partecipate. Un detenuto, nel carcere di Trento, mette in atto una protesta. Segue una nottata di repressione e sgomberi. Prendono vita iniziative in tutta la penisola e non solo. I controlli polizieschi sono fitti e i lavori continuano. Ci si prepara a un'altra serata di resistenza, nonostante lo scenario sia da colpo di stato militare, supportato dalle falsità dell'informazione di regime che continua a rassicurare la popolazione. Un attivista torinese attua lo sciopero della fame contro le restrizioni. Mentre il Portogallo abbandona l'alta velocità, il movimento NOTAV produce un dossier sul 3 luglio. E questo era dunque l'appello della Val di Susa rivolto all'Italia e non solo. Rimaniamo sempre, come dicevamo, nei titoli in Piemonte, scendiamo dunque nella città di Torino, dove ci sono due morti in un cantiere per la costruzione dell'inceneritore. Un morto e due feriti, incidente in un cantiere per la costruzione del nuovo inceneritore di Torino. L'operaio è caduto dal ponteggio da un'altezza di 40 metri, mentre i suoi due colleghi feriti sono stati trasportati in condizioni gravi all'ospedale del capoluogo piemontese, ma al momento non sarebbero in pericolo di vita. I tre operai, tutti dipendenti di una ditta di Ravenna, sono stati visti cadere nel vuoto da una persona che ha subito dato l'allarme. Il testimone è stato trasportato a sua volta in ospedale per lo shock seguito al tragico incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e i mezzi del 118, tra cui l'elisoccorso che ha trasportato i due feriti all'ospedale. nello stesso cantiere, meno di un mese fa, il 3 marzo, il caposquadra di una ditta edile, Antonio Carpini, era morto dopo essere precipitato nel vuoto da un'altezza di 30 metri. Analogie col nuovo incidente che riportano l'attenzione sulle misure di sicurezza anche in un cantiere di un'opera pubblica come l'inceneritore. Dopo il primo infortunio mortale, gli altri lavoratori del cantiere del Gerbido, si erano astenuti per un giorno proprio per chiedere una maggiore sensibilità nei confronti del tema della sicurezza. Leggiamo ora questo articolo firmato da Manlio Di Nucci, che è stato pubblicato su Indie Media Italia, ma che in realtà è stato, diciamo, pubblicato anche sul Manifesto. E quindi leggiamo di questa, di questo evento, di questi caccia, di questi acquisti, insomma, del nostro governo che continua a divertirsi con questi, con questi giochini, insomma. Sul caccia F-35 in Parlamento, il ministro Di Paola ha dovuto fare un buon viso a cattivo gioco. Lo assicura Flavio Lotti, coordinatore della Tavola della Pace. Il ministro della Difesa ha dovuto dunque piegare la testa di fronte a una maggioranza parlamentare che decide di ridurre il numero dei caccia. Dagli atti parlamentari risulta esattamente l'opposto. Di Paola è andato in Parlamento ad annunciare la decisione, già presa dal governo Monti, di ricalibrare l'acquisto degli F-35 da 131 a 90. A questi, però, attenzione, si aggiungeranno 90 euro flighter. In tal modo l'Italia disporrà di 180 cacciabombardieri molto più performanti, in altre parole molto più distruttivi dei Tornado usati un anno fa per bombardare la Libia, più che sufficienti ad assicurare la capacità di protezione del potere aereo, uno dei cardini del concetto strategico pentagoniano enunciato da Di Paola nel 2005. L'Italia non solo si impegna ad acquistare 90 F-35, numero aumentabile in caso di necessità, ma partecipa al programma della Lockheed Martin con l'impianto della Lenia a Cameri, realizzato, precisa Di Paola, in un aeroporto militare, perché gli americani e la Lockheed Martin hanno preteso delle condizioni di sicurezza e di segretezza, o in una base militare. A certe condizioni non si faceva. Qui saranno non solo assemblati i caccia, ma realizzati gli aggiornamenti, perché gli aerei nel tempo hanno gli upgrade, con continue spese aggiuntive. È bello questa cosa, no? Ne trarrà vantaggio l'industria militare, elemento tecnologico importante di questo paese e che oggi più che mai punta sull'esportazione. Il costo unitario dell'F-35 è ancora nelle nuvole. Oggi si parla di un'ottantina di milioni di dollari, ma ci si aspetta che la cifra sia sempre più bassa, racconta il favolista Di Paola ai piccoli onorevoli. E per tranquillizzarli aggiunge: se sapeste quanto è costato l'Eurofighter, vi spaventereste. Parliamo, per capirci, del doppio della cifra. Nessuno ha osato chiedergli a quanto ammonta la spaventosa cifra, e neppure la IDV, che nella sua mozione bocciata chiedeva al governo di valutare la possibilità di uscire dal programma F-35, ha osato mettere il dito nella piaga. Questo caccia di quinta generazione serve non alla difesa dell'Italia, ma alla strategia offensiva USA NATO, cui partecipa l'Italia. Serve a mantenere gli alleati sotto la leadership degli Stati Uniti, non solo sul piano militare. Il programma F-35 è uno dei volani dell'economia statunitense. Vi partecipano oltre 1.300 fornitori da 47 stati USA, creando 130.000 posti di lavoro che potrebbero raddoppiare. Tutto questo viene ignorato dal Parlamento italiano. Il programma F-35, illustrato da Di Paola, è stato così approvato con un sostanzioso consenso bipartisan di PDL e PD. Non c'è da stupirsi. Per far partecipare l'Italia al programma si sono coerentemente impegnati dal 1998 ad oggi i governi D'Alema, Berlusconi 1, Prodi, Berlusconi 2, Monti. E dopo che l'F-35 sarà stato usato dall'Italia in una azione di guerra, ci sarà un Flavio Lotti che alla Perugia-Assisi riprenderà a marciare a fianco del capo del governo, come fece nel 1999 col presidente del Consiglio D'Alema, che dopo aver inviato gli aerei in Italia a bombardare la Jugoslavia, partecipò su invito alla marcia della pace. e bella marcia della pace, bella idea, veramente una grandissima vergogna, mentre l'Italia è sprofonda in una crisi spaventosa, si spendono inutilmente dei soldi, tantissimi soldi, per comprare delle macchine da guerra. E veramente questa notizia si commenta da sola, veramente si commenta da sola. Madre superiora, madre superiora, con gli occhiali mi piaci ancora di più. Una mattina presto, insieme con un amico, avevo voglia di vederti e son venuto da te. Tu mi hai aperto la porta con l'aria un po' assonnata e con gli occhiali che quando sei fuori non porti mai. Di averti disturbato, l'ho capito all'istante. Infine, come ultima notizia, un breve aggiornamento per quanto riguarda la Marlane. Come sapete, potete leggere queste le ultime notizie appunto sul sito di Calabria Indy Media, sulla feature centrale, che a breve insomma verrà aggiornata. Abbiamo detto che ci sono stati questi problemi tecnici su Calabria Indy Media, quindi non abbiamo ancora potuto aggiornare le ultime notizie, però dopo vari rinvii, dopo un anno, più di un anno insomma, in cui per cavilli burocratici questo processo sembrava davvero non partire, negli scorsi giorni finalmente c'è stata la prima udienza e ora ci si aggiorna al 20 di aprile. Durante questa udienza c'è stato un sit-in innanzi al Tribunale di Paola, dove molti manifestanti hanno indossato dei lenzuoli bianchi a mo' di fantasma, proprio per dimostrare la non voce dei 150 morti, dei 150 operai morti uccisi da una fabbrica dei veleni, quella di Praia Mare, che è comunque difesa in maniera, insomma, non sappiamo, fino ad ora non era mai entrata nel merito della discussione dei tribunali, perché ogni volta, come dicevamo, c'era questo cavillo burocratico che impediva far avviare il processo. Ora la prossima data, sempre al Tribunale di Paola, è prevista per il 20 aprile e anche in quell'occasione sicuramente ci sarà un momento di riflessione, tanti momenti di riflessione e di vicinanza ai familiari delle vittime e ai sopravvissuti, insomma, di questa strage vera e propria, che non sono soltanto poi gli operai, lo ricordiamo, ma è un intero ecosistema che è stato barbaramente distrutto da una fabbrica che praticamente era un'enorme nuvola di fumi, priva di qualsiasi strumento di depurazione e di sicurezza per l'ambiente e per chi ci lavorava. Una vera fabbrica, insomma, da terzo mondo, dove tanto la gente, pure che muore, non fa niente perché c'è tanta gente affamata pronta magari ad andare lì a lavorare con raccomandazione, magari non sappiamo, a lavorare per questa grande industria del nord che è venuta a portare morte e distruzione. Bellissima cosa, sicuramente, complimenti a chi ancora crede in queste, lo diciamo, in queste stronzate e da sviluppo che proverrebbe dalle fabbriche del nord. Ebbene, dopo questo sclero finale, crediamo sia giunto il momento di salutarvi e di ricordarvi ancora una volta che potete ascoltarci in replica ogni sabato alle 20.30, sempre solo su Transizione di Fase. In più, se avete voglia di ascoltare i nostri podcast, potete rivolgervi al sito di calabria.indimedia.org, dove appunto nella sezione Selezionati troverete i nostri vari podcast da maggio scorso. Infatti è da maggio che Indie Radio ha preso avvio e speriamo di continuare così. E vi ricordiamo sempre che siamo comunque un progetto aperto alle varie collaborazioni che si vanno a presentare via via, come abbiamo dimostrato d'altra parte con i vari speciali che si susseguono e che si sono susseguiti nel corso del tempo. È giunto dunque il momento di salutarvi. Questa volta non possiamo rimandarvi a Tortuga, il programma che generalmente seguiva a ruota più o meno in di radio, perché appunto il nostro pirata ha dismesso la programmazione di questo programma, quindi vi lasciamo le selezioni musicali di transizione di fase, vi salutiamo e alla prossima. Paura di mostrare.